Vi do il benvenuto, ne approfitto finché i nostri ospiti si mettono a proprio agio con le solite notizie, pubblicità che facciamo della biblioteca. E quindi parto dal gruppo di lettura il 21 febbraio alle ore 17, il gruppo di lettura localmente dove leggiamo insieme e commentiamo ogni mese un romanzo di interesse locale o di autore o autrice locale. Vi ricordo la data, 21 febbraio, mercoledì alle 17 in biblioteca. È un gruppo di lettura che sta andando avanti molto bene da più di un anno. Poi abbiamo una novità, il 20 febbraio ci troviamo per la seconda volta con il gruppo di lettura alla mattina alle ore 10, con il gruppo Facciamo Notizie Insieme, quindi è un nuovo modo di leggere i quotidiani condividendo notizie, informazioni e soprattutto leggendo le varie testate e confrontandoci insieme su come la cronaca varia e come viene raccontato ed esaminato un evento nel tempo e soprattutto dalle varie testate. E infine, martedì 20 febbraio, la sera invece, avremo con noi un ritorno ad Zapperi Zucker, che presenterà il suo nuovo libro, ed è Il viaggio di Ermelinda, un romanzo, sarà con noi e con la moderazione di Fabio Zamboni e le letture di Sandra Passarello. Questo insomma è un po' il programma di febbraio, che vi ricordo, essendoci anche il carnevale imminente, noi saremo aperti giovedì grasso dalle 9 alle 13 e anche martedì grasso dalle 9 alle 13, poi insomma siamo chiusi nel pomeriggio. E adesso passiamo ai nostri ospiti, che ringrazio tantissimo. Ecco, la serata, abbiamo detto, è una serata col brivido, perché ci sono dei piccoli, grandi, importanti cambiamenti. Ecco, è un grande ritorno che salutiamo con piacere del professor De Plato. L'anno scorso, sempre all'inizio della primavera o alla fine dell'inverno, ecco, l'avevamo incontrato e conosciuto con il libro Vincent van Gogh, Il giallo della follia. Era una serata molto interessante, è stata una serata molto interessante e diciamo che anche in quell'occasione c'era stata la collaborazione del Forum Democratico. Barbara Repetto, che questa sera purtroppo per causa maggiore non è riuscita a partecipare insieme a Tony Visentini, ci saluta e vi saluta tutti, ma era stata la nostra promotrice, colei che ci aveva messo in contatto, in collegamento e aveva appunto pensato a una serata di questo tipo, per poi tornare anche quest'anno con il nuovo libro del professor De Plato, Caravaggio, La luce e il buio della mente. Possiamo contare questa sera anche sull'aiuto, sulla collaborazione, sulla moderazione di due persone, due ospiti di grande respiro che conosciamo, Pino Maiolo e Alberto Stenico, che ci presenteranno il professor De Plato, il libro appunto che vi abbiamo appena menzionato su Caravaggio, e abbiamo preparato anche una piccola vetrina, ci sono delle copie in vendita sempre in questa sala. Io vi lascio in compagnia dei nostri ospiti, che ringrazio ancora e vi auguro una piacevole serata e di rivedervi in biblioteca presto. Grazie. Grazie Valeria Trevisan. E io do il benvenuto al gentile pubblico e ringrazio ovviamente la biblioteca per ospitarci, come in altre occasioni, anche come associazione Forum Democratico, che questa sera rappresento in assenza di Barbara Repetto, che è la Presidente. Comunque siamo insieme, in tandem, a organizzare queste iniziative. La iniziativa di oggi è, se vogliamo, una tappa di una serie di iniziative che Forum Democratico ha proposto al pubblico bolzanino su una serie notevole di temi, ma anche su questo tema specifico, perché abbiamo la fortuna, il privilegio di avere un rapporto abbastanza stretto e di collaborazione con il professor Gianni De Plato, che oltre che il libro su Van Gogh dell'anno scorso, mi pare, io ricordo sempre ancora con grande interesse il libro sul figlio di Togliatti, presentato ancora al Circolo della Stampa qualche anno fa, che era del massimo interesse appunto e che ci ha molto colpito. Quindi grazie, e io naturalmente so che il pubblico è qui per ascoltare soprattutto lui, ma anche per sentire il nostro Pino Maiolo, lo psichiatra e lo psicologo, che dialogano tra loro su questo tema della luce e del buio, dell'ombra, dello scuro, che non è ovviamente solamente una questione che riguarda Caravaggio, ma insomma in qualche modo la vita di noi umani, no? Questa alternanza tra la luce e il buio, e quindi questo è un tema di grandissimo interesse, e quindi siamo qui per ascoltarli e anche per dirci che possiamo concentrare il dibattito, anche visto, diciamo così, il rapporto abbastanza raccolto col pubblico, di concentrarlo in modo tale da concludere verso le 7, così penso, attorno alle 7, in modo che tutti sappiano questa cosa e non arrivare alla fine delle conferenze con la sala che si svuota. Quindi sappiamo che c'è molto da dire e da ascoltare. Io in particolare sono qui tutto orecchi per sentire innanzitutto il professor De Plato, che presenta questo suo libro, che è quello che vedete lì e che naturalmente invitiamo ad acquistare. Bene, grazie, e io passerei la parola al professor De Plato. Io passerei la parola al professor Maiolo per introdurre, perché i ringraziamenti li farò subito dopo, ma intanto do subito la parola a te perché possa... Mi approprio di questo microfono. Allora, io sono contento di essere qui nuovamente. Ci siamo incontrati, appunto, come è stato detto, l'anno scorso, e con Giovanni De Plato abbiamo fatto conoscenza e amicizia in quell'occasione. Non era che ci conoscevamo prima, ci siamo conosciuti qui e io ho detto l'amico trovato, non ritrovato ma trovato, e quindi questo è un piacere, adesso posso dire ritrovato, perché lo ritrovo con questo libro che peraltro, permettimi Gianni, che confessi un segreto, nel senso che quando l'anno scorso mi mandò la copia del suo libro, non me lo mandò la casa editrice, me lo mandò lui direttamente, mi mandò un file su Caravaggio. Ricordi? Ci fu un lapsus. Ecco, tanto per entrare subito nel tema che vogliamo affrontare. Per cui già lì cominciai a leggere già le bozze di quel lavoro che poi prese la luce e che, devo dire, ancora mi attrae per una serie di motivi. La prima è perché appunto abbiamo in comune una visione che condividiamo, che io condivido con lui, della lettura psicologica, psichiatrica, relativa appunto all'arte, relativa alla anche e soprattutto alla questione centrale che affronta, che è quella di andare a vedere, a verificare, a cercare, è un ricercatore appunto di questo significato, perché molto spesso la genialità viene scambiata come malattia, come follia. Ed è stato il tema su cui ha indagato molto bene appunto con il libro di Van Gogh. Ritorna con un grande artista come Caravaggio, dove appunto il sottotitolo Luci e ombre, diciamo, mettono in evidenza appunto quanto il rischio di essere scambiati per matti sia notevole, e tant'è che la storia che il professor De Plato racconta, perché è una storia, non è un saggio, lui stesso lo dice fin dall'inizio, ho scelto di scrivere un romanzo e non un saggio, eppure è abituato a scrivere saggi, testi, testi scientifici che ha pubblicato, invece qui si sta appunto muovendo sul terreno della narrazione. Ovviamente la narrazione è diversa da un saggio, è diversa perché ci coinvolge molto di più. Il saggio, l'opera scientifica, ci mette di fronte a dei dati freddi o a delle valutazioni. Qui no, qui abbiamo bisogno, io credo, ed è questo il grande valore della narrazione di Giovanni De Plato, abbiamo bisogno di entrare nella dimensione psicologica, emozionale del pittore, dell'artista. Altrimenti non capiremo mai, e forse è qui sta un po' la chiave di quanti, lui dice, psicologi, psichiatri, scienziati che vogliono, che dicono di saper leggere la mente umana, di saper cogliere che cosa c'è dietro le cose che fa l'essere umano, per prima cosa però fanno una diagnosi e non entrano mai dentro, o non entrano spesso, diciamo, assolviamoli un po', non entrano nella dimensione umana. Ecco, tutto il libro credo che sia un altro grande contributo a questa ricerca che il nostro scrittore sta facendo. È cominciata appunto già da quello che è il testo che ha citato Alberto Stenico, no? Quindi è una ricerca che va avanti da un po' di tempo. Allora, questo libro, come si comincia a leggere, pone un sacco di domande e credo che susciti anche tante domande. Allora, la prima che io vorrei porre a Gianni De Plato è questa: ma perché sei andato a scrivere questa storia di Caravaggio? È una curiosità, ma credo che ci stia, no? Allora, mi tocca velocemente fare alcuni ringraziamenti e spero di non stancarvi per questo. Sono felice di ritornare qui a Bolzano. Tra l'altro mia figlia è nata qui a Bolzano, per cui abita a Roma ma ha i suoi natali qui in questa città. Anche perché sono stato sempre ospitato con molto interesse e soprattutto negli ultimi anni appunto dalla Biblioteca Provinciale, gentilmente disponibile con Valeria Trevisan, che ha un po' seguito questa mia volontà di ritornare qui a Bolzano. L'ho chiesto io di poter ritornare qui perché sia il rapporto col Forum Democratico con Barbara e stasera con Alberto Stenico, sia con il professor Maiolo, tra l'altro riunisce competenze dalla psichiatria alla psicoterapia, il confronto è stato molto stimolante anche per me, perché quando si scrive un libro, come dire, il ritorno è quello la cosa più importante, cioè cosa mi ritorna di quello che ho messo su, bianco su nero. Io su questo mi aspetto anche stasera, come dire, di ricevere delle critiche, cioè a me non interessano tanto un bel libro interessante, compratelo, leggetelo, mi interessano soprattutto le osservazioni, le critiche per il lavoro che mi accingo a fare, che sarà appunto ancora sul problema dell'arte e della follia. Io mi sto interrogando su questo problema dell'arte e della follia e l'interrogativo è perché gli psichiatri, gli psicologi, gli psicoterapeuti continuano a mettere in relazione causale arte e follia, ma non c'è nessun nesso causale tra questi due termini. Eppure oggi, se vedete la pubblicazione anche di un quotidiano molto, come dire, come Repubblica, che ha pubblicato, ospitando degli inserti, appunto su Arte e Follia, coordinati da Andreoli, dal professor Andreoli, e ci sono una serie di artisti appunto nel capitolo Arte e Follia. Ebbene, se noi andiamo a vedere con attenzione che relazione esiste tra arte e follia, ci accorgiamo, se conosciamo e studiamo bene la storia dei cosiddetti artisti folli, che in realtà non c'è alcuna relazione, soprattutto alcuna relazione causale. Per farmi capire subito e per non girare intorno all'argomento, vi faccio vedere questo meraviglioso quadro di Caravaggio, credo il più bello, il quadro più grande, che si trova appunto a La Valletta, in questa città, è un quadro di una bellezza, di una complessità unica. Tra l'altro rimanda a una serie di richiami estremamente religiosi, perché lui era di grande cultura religiosa, lui era un intellettuale studioso, non era un pittore, era, secondo me, è arrivato alla pittura anche lui abbastanza tardi, è arrivato alla pittura dopo i 20 anni, e sono stati 20 anni di formazione culturale, artistica e scientifica, anche scientifica, perché vi farò vedere come lui abbia preso moltissimo dal grande Leonardo, che lui stimava moltissimo. Ora, se vedete questo quadro, vi dico subito anche quali sono le caratteristiche, il suo stile pittorico. Se vedete, lui viene descritto come il pittore del chiaro e scuro. Se vedete lo scuro alle spalle delle donne, è uno scuro molto particolare, è uno scuro che Caravaggio usava, che non è tanto il nero stemperato, lui usava il catrame, dipingeva questo scuro, questo nero, usando questa sostanza che era il catrame. Poi vi dirò perché il catrame. E invece l'altro colore, che è la luce, ma in questo quadro soprattutto questa decapitazione con questo sangue rosso che è ancora lì, che pullula, questo è un rosso con cui lui firma il quadro. Questo è uno dei pochi quadri firmati da Caravaggio. E questo quadro lo firma con, appunto, si dice, con il sangue, cioè con quella macchia di sangue che fu uscita dal collo del giustiziato. Ed era un colore che lui impastava con sangue e creta, cioè usava non tanto appunto stemperare i colori, ma li creava i colori. E questa creazione di colori era una creazione che lui faceva con un'estrema arte scientifica, perché in realtà lui era stato ospitato dal Cardinal del Monte al Palazzo del Senato, quello che oggi è il Palazzo del Senato. Lì abitava questo Cardinal del Monte, che è il primo cristiano chimico, si dice. Cioè lui era un chimico e aveva un laboratorio chimico. In questo laboratorio chimico il Cardinal del Monte non solo creava le sostanze allora in qualche modo, tra virgolette, terapeutiche, insomma, che cercava di curare le malattie che si diffondevano in quel periodo, ma anche era sperimentazione delle combinazioni delle varie sostanze. E Caravaggio apprende lì quest'arte del mischiare, mescolare, inventarsi i colori. Ora voi capite che se un artista dipinge un quadro di questa complessità e di questa meravigliosità, che secondo me lo rende unico e capolavoro, vedete come anche negli altri quadri, ve ne faccio vedere solo due, Caravaggio è, come dire, sì un religioso, sì, un attento esecutore di quelle che erano state le direttive del Consiglio di Trento, per cui era intervenuto a dare regole su come dipingere l'arte sacra. E lui a queste regole si atteneva in maniera molto stretta, perché era molto legato alla famiglia dei Borromei. E il cardinale Borromeo era quello che appunto aveva scritto una specie di regolamento su come dipingere le immagini sacre. Ecco, Caravaggio dipinge questa immagine sacra che è la morte della Vergine. In realtà, se vedete, questa Vergine ha i piedi, come dire, non molto puliti o eleganti, ha un ventre gonfio, perché è una suicida, e ha questa faccia, questo viso, estremamente espressivo di qualche cosa che va oltre l'umano. Ecco, Caravaggio era capace di descrivere l'umano che tendeva verso la divinità. Questo è una donna, si pensa forse anche una prostituta, che si è suicidata. Lui prende l'immagine di questa donna e la dipinge con questa altezza, come dire, espressiva di qualche cosa che appunto raffigura addirittura la Madonna. Naturalmente voi pensate che questa era un'immagine che era stata commissionata, ma non ebbe buona fortuna, perché il vicario di quella chiesa disse: no, non è possibile mettere in chiesa un quadro di questa volgarità e di questa così plebeo, che non ha nulla a che fare con l'arte sacra. Invece il cardinal Del Monte, cardinale, che era un intenditore anche di arte, compra immediatamente questo quadro, lo compra. E Velázquez, quando il grande pittore, che era in quel periodo in Italia, vede questo quadro, a sua volta lo compra e lo vende al duca di Mantova. Per cui quella che sembrava un ostracismo nei confronti del genio di questo pittore, in realtà viene molto ammirato, molto apprezzato dalle persone che vivevano nell'arte e raccoglievano opere di arte. L'altro quadro simbolico che vi faccio vedere subito per dire chi era Caravaggio, vedete la bellezza di questo quadro, e questo è Amor Vincit, cioè vuol descrivere la vittoria dell'amore, e descrive questo fanciullo perfetto nelle sue forme, che però ha le ali dell'angelo. Anche qui, come dire, c'è il processo inverso, cioè l'immagine dell'angelo che scende, no, dal cielo e si personifica in questo adolescente. Per cui c'è una doppia chiave di Caravaggio, cioè l'umano che diventa sacro e il sacro che si fa umano. E questa è la grandezza di Caravaggio. Però, naturalmente, anche qui c'è chi ha voluto vedere in questo quadro qualche cosa di completamente falso, nel senso di dire: ma questo è un quadro di un fanciullo che vuole attrarre, di un fagiullo che è un efebo, cioè. E naturalmente qualcuno ha cominciato a parlare appunto della tendenza omosessuale di Caravaggio, proprio perché descriveva questi fanciulli così perfetti nelle loro sembianze e nella loro fisicità. E naturalmente c'è qualcuno che ha anche paragonato, per queste attrazioni verso l'omosessualità e verso questi infanti, a Caravaggio, a Pasolini. Ma Caravaggio e Pasolini proprio non c'entra nulla. Se voi vedete, c'è qualche rappresentazione anche teatrale intitolata Caravaggio e Pasolini. Vi dico subito che Caravaggio non era un omosessuale, questo non è perché lo dico io, ma da tutta la ricostruzione della sua vita lui amava le donne e per amore di una donna ha anche ammazzato, e poi vedremo perché. Allora, questo grande genio, questo grande pittore, questo pittore unico nella sua genialità, appunto, che cosa registra? Registra un'accusa terribile di essere un delinquente, di essere un assassino e di essere un folle. Queste sono le tre accuse che per secoli lui si è portato dietro. È tant'è vero che è stato anche riconosciuto come Caravaggio maledetto, ma di maledizione non c'è assolutamente nulla, e vedremo come queste tre parole sono tre parole frutto non tanto di una oggettività nella valutazione della vita e dell'arte e del percorso artistico di Caravaggio, quando ha una situazione di, in qualche modo, di pregiudizio, di preconcetto, che sia nell'arte, sia nella scienza medica e anche in psichiatria sono molto, ma molto presenti. E allora qui la mia, come dire, prima domanda che rivolgo al carissimo amico ritrovato con molto piacere e con molto interesse. Pino, secondo te le nostre scienze sono ancora intrise di pregiudizio, di preconcetto e in qualche modo stigmatizzanti verso una serie non solo di personaggi, ma anche di possibili persone che sono afflitte da una sofferenza? Mi fai una domanda alla quale io non, come dire, con meno approfondimenti dei tuoi, però devo rispondere che sono convinto che il pregiudizio domini le nostre categorie professionali. Molto probabilmente, io dico, soprattutto quando ci riesce difficile capire qualche cosa. Allora ci aggrappiamo alle certezze che vengono, come accennavo prima, come tu dici anche più volte, del fare diagnosi senza nemmeno sapere chi è il paziente, senza sapere nemmeno che quel prurito o quel bruciore alla spalla, come dici nel tuo libro, il tuo, tuo primario ordinò di fare una pulizia con l'alcol, ecco, no? Quando era una herpes zoster, ecco, no? Quindi paziente che non viene visto, scusami. Ah, ok, scusa, sì, hai ragione. Ecco, per cui questo, secondo me, alimenta il pregiudizio, alimenta i preconcetti, no? E ci fa cadere, diciamo, nella dimensione di chi sappiamo con un colpo d'occhio definire subito un problema. Purtroppo. Vi riporto una frase del presidente, del presidente della Repubblica, che di qualche mese fa, che rispetto a questo problema del disagio mentale o del disturbo mentale ha dovuto richiamare l'attenzione degli italiani al fatto che molte volte ci si dimentica o si sottovaluta questo disagio proprio perché siamo vittime, ognuno di noi, di un pregiudizio. Ecco, questo del pregiudizio, tenete conto che è molto più esteso di quanto volete. Se voi vedete o sentite o guardate o leggete un quotidiano o la televisione o un qualsiasi programma, non vi accorgete quanto pregiudizio, preconcetti e stereotipi ci sono all'interno di quei messaggi, che voi naturalmente li prendete come buoni, ma in realtà sono messaggi che poi, come dire, vi deformano rispetto a una valutazione del reale. In particolare questa, come dire, farsi vittima di questa informazione disinformante, secondo me, ostacola comunque la capacità di rendersi disponibile ad apprendere una cultura scientifica, cioè una cultura dell'oggettività, una cultura del dato, una cultura fondata. Noi siamo ancora, come dire, pieni di una cultura umanistica cosiddetta, ma poco attenta ad informarsi e a riconoscere l'importanza di una cultura invece scientifica. Ecco, il mio impegno di scrivere è soprattutto quello di lottare contro quelle tre parole, pregiudizi, preconcetti e stereotipi, che sono anche nella scienza, e di possibilmente diffondere il più possibile una cultura scientifica. Tenete conto di questo, che di solito quando c'è una ferita anche provocata da un'arma o da uno strumento fisico, questa si rimargina. Ma una ferita provocata da una parola maligna o da una parola errata, questa parola non guarisce. È lì che, come dire, continua a farci soffrire o a condizionarci. E allora, brevemente, vi faccio vedere, lo facciamo vedere o lo sorvoliamo, questa pasticca che vi faccio vedere, che è di un personaggio molto televisivo e molto... Non parte. Va bene, ve la riassumo io. Questo personaggio si chiama Umberto Galimberti. Credo che alcuni di voi l'hanno sentito o ascoltato, il quale fa questa affermazione: il linguaggio è uno strumento, non è uno strumento della ragione. Il linguaggio, invece, al contrario, è qualche cosa che solo i poeti, cioè coloro che hanno un'ispirazione, riescono a creare. Le parole nuove sono create dai poeti. Il linguaggio che noi parliamo proviene da questa ispirazione dei poeti. Naturalmente degli artisti, per cui non sono solo i poeti, ma sono anche quelli che appunto dipingono e creano immagine e non creano soltanto poesie. E lui dice: da dove prendono l'ispirazione questi poeti o questi artisti se non dalla loro follia? È la loro follia che permette a questi artisti, sia essi poeti, sia essi pittori, di dipingere o di scrivere cose geniali. Ecco, francamente, messa così, è come dire che la schizofrenia crea arte, crea poesia. La schizofrenia, prima di tutto, o il disturbo mentale, è sofferenza, che chiede aiuto, che va curata. Non è fonte, magari fosse fonte, di ispirazione artistica o poetica. Certamente però va anche detto che anche lo schizofrenico può scrivere una meravigliosa poesia, o anche, come dire, l'artista può diventare schizofrenico. Però sono due realtà autonome che non si combinano in maniera causale l'uno verso l'altra, perché se pensiamo a questo dovremmo dire che allora il disagio mentale ci fa essere artisti e gli artisti si ammalano di follia. Mi sembra che questo è un altro di quei pregiudizi che un psicoterapeuta, psicoanalista di grande risonanza che scrive sui quotidiani maggiori d'Italia e spesso è in televisione, che ci, come dire, somministra le sue affermazioni, che sono pericolose, velenose, perché in realtà creano soltanto pregiudizio e ci allontanano da una corretta informazione scientifica e dal dato reale. Cosa ne pensi tu, Giuseppe? lo sapevo che arrivava qui. Allora, ne abbiamo già parlato, non voglio fare la difesa di Galimberti, che sostanzialmente saprebbe difendersi da solo. Lo considero uno professionista, come dire, onesto da un punto di vista intellettuale. Penso che abbia, come dire, sintetizzato troppo qualcosa che non c'è assolutamente. Lui è uno junghiano, abbiamo la stessa formazione, ma né Jung, tanto meno Freud, hanno mai parlato della genialità come espressione di patologia. Prego? Non di espressione di... Allora... Ok, è stato detto, ma bisogna prendere, non estrapolare mai dal... Prego? No, non l'ha mai detto, perché se pensa che tutto il suo libro rosso... No, ok, ma siamo qui per discutere. Voglio dire, tutto il suo libro rosso è impostato sulla costruzione, appunto, il racconto, la narrazione di quelle che sono le sue riflessioni, i suoi sogni, insieme con i suoi disegni, le sue opere che ha costruito nel corso della sua vita. E che cosa dice, oltre ad aver detto questo all'interno però di un contesto più ampio? Dice che quelle immagini che sembra che erano per lui incomprensibili servivano a lui per capire il disagio profondo che aveva. Ma questo non vuol dire che è malato, è per dire che ci sono aspetti interni che, devo dire io da analista pure, quando mi ritrovo con un paziente che sta male, dico: disegna, scrivi, pittura, fai delle cose che non passano attraverso il ragionamento, passano meno attraverso il ragionamento. Questo non vuol dire che io gli dico: sei un artista e quindi sei malato, tira fuori la tua malattia, ma usa un altro linguaggio per comprendere quello che è la tua sofferenza. Allora, ripeto, non voglio giustificare Umberto Galimberti, che peraltro conosco, ma voglio dire, è perché secondo me, e questo è un guaio a mio avviso, non so se sei d'accordo, la comunicazione di oggi è talmente, come dire, sincopata, mi viene da dire, talmente che deve bucare, diciamolo in termine tecnico. Se io vado a parlare in televisione, in un'intervista mi danno un minuto e mezzo, e devo dire delle cose che devono catturare l'attenzione. E allora si fanno delle semplificazioni che in questo caso sono, come dice Giovanni De Plato, sono delle semplificazioni pericolose. Solo per questo dico, ma sicuramente nei riferimenti che noi abbiamo, sia di Jung che di Freud ancor meno, Freud appunto non dice assolutamente che l'arte è espressione della patologia, ma è l'espressione di quello che uno sente e di come quello che sente può essere tradotto in immagini, in forme, eccetera. Quindi sicuramente sono passate nella comunità delle idee che sono rimaste profondamente, come dire, cristallizzate. E l'altro discorso è che è vero che questi preconcetti attraversano sia gli psichiatri, gli psicologi, gli psicoterapeuti, però devo dire anche che molto spesso il discorso della patologia riguarda molto di più la psichiatria, che è nata per questo, cioè per questo, no? Per fare diagnosi. La differenza sta nel fatto che l'analisi, ad esempio, la psicologia dinamica messa a punto da Jung e da Freud e da Jung, hanno cercato di trovare un linguaggio per poter aiutare il paziente a venire fuori dalla sofferenza. Ma questo linguaggio, che è possibile acquisire attraverso le opere, la pittura, la musica, lo scrivere, eccetera, hanno bisogno di un io solido perché possano essere utili. Un io solido che lo schizofrenico non ha. Chiaro. Potrei dire che sono così d'accordo che spero di ritornare su questo tema per fare chiarezza. Cioè, vorrei fare una ricerca per riuscire a definire meglio che cosa intendiamo per creatività, che cosa intendiamo per immaginazione e dove queste facoltà albergano, dove sono. Sono nella ragione, come nega Galimberti, o sono nel buio, come mi sembra che sostenga. Io credo che c'è uno spazio proprio dell'immaginazione e della creatività che oggi le neuroscienze ci stanno un po' chiarendo, dove la persona, cioè la ragione, il pensiero, e l'istinto, cioè il buio, sono i due poli. Non si possono eliminare uno dei due poli. E all'interno di questi due poli che c'è uno spazio, che è appunto quello dell'immaginazione e della creazione, sia del poeta che dell'artista. E questo spazio oggi lo possiamo definire e in qualche modo spero identificare con il contributo delle neuroscienze. Per cui probabilmente, forse, il prossimo non sarà un romanzo, ma sarà un saggio. Cioè nel senso che vorrei misurarmi per, come dire, chiarire fino in fondo il nodo. Altrimenti, come dire, ci giriamo, ma non impattiamo con la durezza di questo problema. Come vedete, io ho scritto 4 romanzi da quando sono andato in pensione come docente universitario. Ho preferito non fare attività privata, anche perché ero stanco di tutto quello che avevo fatto fino ad allora, tra chiudere ospedali psichiatrici, scuole speciali e quant'altro. Preferivo, come dire, alleggerire un po' la mia attività e, visto che mi piace molto scrivere, ho deciso che la cosa che mi piaceva di più è scrivere dei romanzi. E ho scritto questi 4 romanzi, che sono 4 casi psichiatrici. Non sono, come dire, dei romanzi al di fuori della realtà, ma sono casi concreti. Il primo, che forse è quello che mi ha preso di più, è il figlio di Togliatti. Voi non so se sapete che il figlio di Togliatti è morto in una struttura psichiatrica senza averne alcuna necessità. La trama non ve la racconto, ma la cosa che posso dire è che Togliatti, il privato era privato e il pubblico era pubblico, cioè il privato non aveva nessuna relazione con il pubblico. Lui decantava l'uomo futuro, l'uomo dell'avvenire, e in realtà a suo figlio ha negato un'esistenza umana, disconoscendolo. Naturalmente il mistero di Evita, voi sapete questa donna meravigliosa del Novecento, anche questa ha subito una lobotomia. Aveva un cancro, erano gli ultimi giorni della sua vita, e suo marito, credo, l'entourage della presidenza, ha chiamato questo neurochirurgo americano, questo documentato su riviste americane, che gli ha praticato una lobotomia. E Evita Perón muore dopo una settimana. Perché la lobotomia? Perché Evita Perón era ancora lucida, nonostante era ridotta a 40 kg, e dal suo letto governava ancora il movimento dei descamisados, dei sindacalisti, degli operai. E allora questo per Truman, che era negli Stati Uniti allora, non era assolutamente sopportabile, e la cosa migliore era togliergli anche l'intelligenza. E la lobotomia servì a questa, come dire, privarla anche della lucidità. I due romanzi sono Van Gogh e Caravaggio. Van Gogh l'abbiamo presentato lo scorso anno, si è beccato una diagnosi di schizofrenia senza alcun motivo. Io prendo il lavoro fatto da Jaspers sulla schizofrenia di Van Gogh e passo per passo, ricostruendo invece il dato reale della vita di Van Gogh, dimostro che assolutamente non era schizofrenico. Ma come si fa a dichiarare schizofrenico una persona che ha scritto circa 900 lettere, una più bella dell'altra, di una lucidità, di una profondità, di una, come dire, stile letterario? Io vi consiglio di leggere le lettere di Van Gogh. Sicuramente i suoi quadri sono quelli che... Ma le lettere sono una perfezione stilistica e letteraria che vale la pena apprezzare. Io devo dire che mi sono innamorato più delle lettere in prima battuta che dei suoi quadri. Sono arrivato dopo ai quadri di Van Gogh. E di Caravaggio, naturalmente, ci sono arrivato per la triade, cioè Caravaggio delinquente, Caravaggio assassino, Caravaggio folle. Io cerco di dimostrare che nessuno di questi tre elementi ha una sua validità e una sua concretezza. Vado velocemente nel dirvi che il pregiudizio, giustamente Pino metteva l'accento sulla psichiatria, che è più quella, come dire, incrostata di pregiudizi. Veniamo dal pregiudizio che il malato mentale è pericoloso a sé e agli altri, e ci abbiamo messo fino al 78 per riuscire, come dire, a superare questo pregiudizio che la malattia coincide con la violenza. Ma anche nella storia dell'arte è piena di pregiudizi. Nella storia dell'arte c'è questo grande storico che è Longhi, che dice l'arte bisogna valutarla soltanto guardando l'arte, perché è l'arte che genera l'arte. Cioè io non ho bisogno di conoscere la vita dell'autore, a me non mi interessa, mi interessa il suo quadro. Se io vedo il quadro so dire se quello è un pittore di grandezza, se ha uno stile da ammirare o se invece è un pittore della domenica. Invece nella storia dell'arte viene avanti anche un'idea diversa, c'è che l'arte nasce dalla vita. E che l'arte nasce dalla vita ve lo dimostro con questo quadro che è di Salvador Dalì. Se voi vedete questo quadro e uno dice ma com'è che ha fatto degli orologi così sbilenchi? Come ce lo spieghiamo questo fatto? Certo Longhi avrebbe detto che era un quadro meraviglioso, era un quadro originale, avrebbe detto, ma non avrebbe mai capito del perché di quegli orologi. Voi sapete perché di questi orologi? Ce lo dice lo stesso Dalì, perché lui dopo un pranzo dove avevano mangiato del camembert i suoi invitati vanno via, lui rimane lì alcune ore col quadro da completare e si accorge che il formaggio si era sciolto. E gli aveva dato l'idea del tempo che passa, cioè il tempo, quanto passa, trasforma gli oggetti, non sono più quelli di prima. Ed ecco come nasce. Allora, come si fa a non occuparsi della vita di un autore, a conoscere il suo percorso formativo, il suo percorso artistico? Cosa che io ho cercato di fare, anche perché ero stato colpito da questo Caravaggio assassino. Questo è un libro anche piuttosto un po' datato, ma c'è anche un libro più recente, anche molto bello, Caravaggio pittore e assassino. Insomma, questo assassino non se lo toglie di dosso da nessuna parte, fino ad arrivare alla pubblicazione, vi dicevo, di Repubblica, in cui tra genio e follia, e Caravaggio viene messo all'interno di questa follia. Io che cosa ho fatto? Ho cercato di ricostruire i primi 20 anni di vita di Caravaggio, cosa che nessuno, se voi prendete tutte le sue bibliografie, non c'è, c'è pochissimo sui suoi primi anni di vita. E i suoi primi anni di vita, secondo me, sono estremamente importanti, tanto che mi hanno permesso di definire il profilo psicologico dell'artista Caravaggio. E parlo di impulsività, di introversione, di irriverenza, di irritabilità, onnipotenza, sfrontatezza, che sono tutti elementi di per sé, non potremmo dire, problematici, perché potrebbero portare verso qualcosa, come dire, anche di sofferenza. Però lui aveva gli ultimi due, un narcisismo benigno e una forte disponibilità all'azione creativa, che l'hanno in qualche modo salvato. C'era il signore che diceva prima, l'arte o la poesia cura, può anche curare l'artista. Probabilmente può anche prevenire o può anche aiutare a non cadere in una situazione di sofferenza. Se voi vedete, ognuno di questi caratteri che sono descritti nel libro, ripercorrendo la sua vita, corrisponde un quadro molto ben identificabile. Questo è appunto l'impulsività con Santa Caterina, voi vedete la ruota dietro della tortura. C'è questo quadro invece della introversione su San Francesco che si interroga sulla morte e con questa croce di legno che è Caravaggio, è un simbolo che si porta dietro costantemente. Vi ho già detto dell'irriverenza con cui Caravaggio dipinge la morte della Vergine per la Chiesa, che poi rifiuta di mettere questo quadro, ma è il quadro che oggi è un po' l'emblema dello stile pittorico di Caravaggio. C'è questo invece irritabilità, lui non tollerava assolutamente le azioni illegali, le azioni violente, tant'è vero che descrive questi bari in una maniera appunto, come dire, disdicevole. Questo ve le ho già in qualche modo presentato, è l'onnipotenza che lui vuole rappresentare con questo giovane fanciullo bellissimo, ma non attraente e non ammiccante, come qualche critico d'arte un po' sconcio lui vuole ritenere. Ancora una sfrontatezza con cui appunto questa bellezza viene presentata ed esibita. E poi quello che è l'elemento di salvezza, che Caravaggio è profondamente convinto di avere delle grandi qualità artistiche. Lui, quando era alla scuola, alla formazione, lì a Milano, nella bottega, dipinge i quadri del suo maestro, che quando appunto non c'era, lui si accorgeva che erano imperfetti, che non erano quadri. Allora lui aggiungeva delle pennellate di artista vero e il suo maestro, quando ritornava non diceva assolutamente nulla, anche se prendeva atto che il quadro era migliorato, ma lui pensava che probabilmente la perfezione della sua. E lui era convinto di questo fin da quando era appunto a scuola e in laboratorio. E questo è il quadro della creatività, dove appunto ancora una volta l'angelo diventa terreno e ispira questa suonata. Se voi sapete, le note di questo spartito sono vere, cioè si può suonare quello spartito, perché Caravaggio si occupava anche di musica e credo che suonasse qualche strumento, tant'è vero che appunto quel disegno non è un disegno così occasionale, ma è un disegno realmente con uno spartito che si può suonare ed è stato suonato. Dopodiché lui a Milano si accorge di essere in qualche modo etichettato, perché il suo maestro non era un bravo uomo, diciamo, o un uomo, come dire, moralmente integro, perché i suoi discepoli o i suoi modelli venivano, come dire, sistematicamente violentati. Voi sapete che siamo in quel periodo del 1005 in cui, come dire, da un punto di vista della sessualità c'era una promiscuità, una libertà e una perversione di qualsiasi tipo, per cui tutto quello che succedeva all'interno di questo laboratorio veniva registrato da Caravaggio, però Caravaggio quando usciva e frequentava questi modelli se la rifacevano con lui, perché sapeva che lui sapeva cosa era successo durante la cosa, per cui viene sfidato, viene accusato e molte volte finisce anche in prigione. Tenete conto che le prigioni di allora erano una specie di, come dire, di sottofondi pieni di animali e naturalmente era difficile uscire vivo. Allora l'unica cosa che gli rimane è fuggire da Milano, scappare da Milano, andare in un ambiente nuovo dove poteva essere in qualche modo molto più stimolato a poter far emergere quella dote di cui era estremamente convinto di essere estremamente creativo e di grande valenza artistica. Il delinquente, come si fa a non essere, come dire, in quel periodo un po' attrezzato a reggere una società violenta? Tenete conto che Milano è una città invasa continuamente tra francesi e spagnoli, per cui la guerra era quotidiana, c'era una miseria nera per cui per sopravvivere la gente rubava qualsiasi cosa che era alla portata di mano e per prendersi un tozzo di pane era disponibile a fare qualsiasi cosa, per cui si ammazzava con una facilità estremamente. Caravaggio cerca di difendersi all'interno di questa, anche perché a 6 anni perde il padre e rimane con la madre, che è una povera donna, e con altri 2 fratelli, e lui è quello che si deve far carico di tirar su un po' questa famiglia. E allora, se non ha, come dire, anche un comportamento in qualche modo difensivo o aggressivo, in quella società di allora, in quella Milano di allora, non era possibile vivere. Per cui diciamo che non era un delinquente, era un giovane del suo tempo, era un giovane che sapeva stare in mezzo agli altri, ma sapendo difendere e sapendo in qualche modo tutelarsi. E naturalmente assassino. Caravaggio assassino. Vi racconto velocemente, anche perché nel libro la storia è narrata in maniera abbastanza descrittiva. Lui si era innamorato di una modella che era, voi sapete, queste modelle erano delle prostitute giovanissime, allora a 13-14 anni si prostituivano per poter sopravvivere, per poter mangiare, e c'era questa modella che era una bellissima ragazza di cui Caravaggio l'usa come modella, e alcuni dei quadri hanno il viso di questa modella, come l'ultimo di cui vi ho fatto vedere. Solo che questa modella aveva il suo protettore, che si chiamava Ranuccio Tommasoni. Ranuccio Tommasoni era un capobanda allora del Rione e non tollerava che Caravaggio, che era un po' estroverso, perché era uno che gli piaceva frequentare le osterie, era uno che beveva quando non lavorava, che lui aveva un ritmo di lavoro che poteva essere anche di 20 ore, però dopo preferiva la baldoria, preferiva di... e naturalmente si infilava sempre in delle strane storie. E questo protettore, Ranuccio, lo sfida a duello, dicendo che doveva smettere di usare la sua donna, e lo sfida, e Caravaggio accetta la sfida perché non si tirava mai indietro. Inizia questo duello a spada, con la spada, e Caravaggio viene ferito a un braccio destro e alla testa, e perde del sangue che gli va naturalmente sui suoi vestiti. Voi immaginate che lui usava il sangue come... naturalmente si irrita, reagisce di scatto, però ragionando sempre, perché non lo voleva ammazzare, perché era il suo antagonista, era il protettore della sua modella e della sua amante, lo voleva ferire all'inquine, cioè lo voleva mutilare a modo suo per vendicarsi, e nel ferire all'inquine, invece di colpire la zona dell'organo, lo ferisce in una coscia sinistra. In questa coscia sinistra Ranuccio, per difendersi, arretra, si vede che si sposta, e in questo movimento si taglia l'arteria femorale. Tagliandosi l'arteria femorale muore dissanguato in pochi secondi, per cui a quel punto fuggi di tutti, e naturalmente essendo Caravaggio protetto dai Sforza Corona, essendo filo francese, non poteva essere in qualche modo giustificato, perché la famiglia Ranucci e Tommasoni erano invece filo spagnoli e protetti dall'altro casato romano, che erano i Farnesi. Allora c'era anche un dissidio tra grandi casati e tra filo anche politico, per cui i giudici di allora, che erano appunto filo spagnoli, emisero immediatamente una sentenza senza neanche sentire Caravaggio, condannandolo a morte, cioè condannandolo a decapitazione. Allora la decapitazione poteva essere eseguita da qualsiasi persona, cioè se Caravaggio veniva incontrato da un qualsiasi cittadino, questo cittadino era autorizzato a decapitarlo. Per cui l'unica cosa che gli rimane è fuggire, e in questo modo lui fugge da Roma ed incomincia l'ultimo percorso tragico della sua vita, di fuga in fuga, fino ad arrivare al capolavoro finale, che è all'isola di Malta. Questa ricostruzione ti convince un po', o ti sembra che io abbia esagerato nel dare valenza a una storia, perché poi venga fuori, come dire, la genialità di questo grande artista, piuttosto che il volere esasperare alcuni tratti del suo comportamento,